non hai, non è chiaro se ci sei. Sei borghese, arrenditi. Gli architetti sono qua, hanno in mano la città. Cambia rotta, cambia stile, scopri l'anno Pisa stile. È volgare il tuo annaspare, sai. Squarcia favole, ti illudi come notte fra le nubi. Questo è l'1996. Chiaro, sì, lo so, ma è una dote che non ho. Estremista edile, piange poi mi fai le fusa, mentre ho perso la mia musa. Cambio rotta, cambio stile, scopro l'anno bisestile. È volgare il mio annaspare, sai. Criminale, la tua scala di sapone. Questo è l'1996. Na na na na. Na na na na. Claudio e Davide, vi confesserò che ho sempre un po' molto invidiato a Radio Popolare il vostro auditorium, dove so si tengono dei grandiosi concerti. In questa settimana un po' ci siamo tolti questa carogna, riuscendo a far suonare anche in spazi angusti come quelli che vedete dei grandi artisti come gli After Hours. 1996 ce l'hanno regalata qualche giorno fa, però l'invidia per l'auditorio un po' rimane. Non possiamo altro che dirvi ci credo e vi aspettiamo quando volete. E a parte questo, credo che forse per finire almeno questa ospitata, di cui ovviamente vi ringraziamo tantissimo, tra le cose che ci accomunano a proposito di live e di artisti, oltre alla fidelizzazione e all'affetto degli ascoltatori, ma lo sapranno là fuori, ma questo momento qua sotto via Locatelli è pieno di ragazzi che sono venuti a testimoniare la loro vicinanza e il loro affetto a voi di Rock FM, e anche in qualche modo un po' la fidelizzazione degli artisti, tutto sommato tutto un certo circuito anche piuttosto allargato, milanesi e non vengono a Milano, sì, Milano, Radio Popolare, Rock FM, Radio Popolare, Rock FM. In qualche modo mi permetto di presumere che ci vogliano bene dove ci metto le emittenti e il circuito appunto degli artisti. È vero, avrei detto una cosa verissima, e tra l'altro questo spirito che unisce queste due radio, che abbiamo avuto anche modo di scoprire quando proprio ci avete permesso di parlare attraverso i vostri microfoni, con i telefoni aperti, la gente confessava appunto di amare e seguire quasi in contemporanea con lo stesso affetto le due radio, quindi questo è anche un po' il motivo per cui siete qui e per cui vi ringraziamo ancora per quello che avete fatto per Rock FM. No, questo è veramente, ci lasciamo con questo riflessione, che in effetti è vero, sì, negli anni, con la mia età posso dirlo, si è parlato a lungo di coppie aperte eccetera, poi è sempre stato un casino. L'unica cosa che abbiamo visto che si può condividere effettivamente senza poi scannamenti o spese incredibili dallo psichiatra, dallo psicanalista, è quello di avere più radio in comune. Nel caso di Radio Popolare e della vostra radio questa cosa è avvenuta, lo confermo. Io ho avuto per giorni e giorni una serie di mail, dopo che siete venuti da noi, di persone che quasi come se fosse un peccato confessato. E io ammetto che ho frequenti scappatelle con voi, a volte però non posso fare a meno di uscire con. Ed era un bel ménage à trois. Vedo qui che scrivono allora Radio Rock Popolare, oppure Penelope che chiedeva, ormai il testo non c'è più, però chiedeva ma allora ci consigliate Radio Popolare? Certo. Io non me la sento, per dirlo tu di tuo, io di mio non me la sento. Posso ammettere che mi girano un po' le balle, perché adesso che mi ero acclimatato mi tolgo la Rock FM da sotto il sedere, nel caso della poltrona, caputtana. Va bene, allora noi ringraziamo voi che siete venuti qui fisicamente, ma ovviamente tutta la struttura, lo staff di Radio Popolare che ci ha dimostrato in questo periodo così la sua solidarietà più che mai gradita. Grazie Claudio, grazie Davide, le strade del rock and roll ci porteranno a incontrarci sicuramente. Senz'altro, noi siamo già pronti per la festa. Ok, ne allora. Siamo certi. Grazie. Grazie a voi, un abbraccio affettuosissimo. Grazie, grazie. Grazie. Minuti primi, Rock FM nella lunga 24 ore, buon giorno dall'Ariele, torno al microfono dopo una nottata insonne, insomma, la famosa credo, dritta. Non credo di averti mai sentito così provato comunque. No, Ariele. No, sai, sono un po' emozionato. Ma è la stanchezza o sono le emozioni No, forti? Sono le emozioni forti che sto vivendo in queste ore. Avrei una sigla da lanciare per ricordare ancora una volta il glorioso programma pomeridiano che si chiamava Frigidaire. Ma che gran trasmissione, c'è l'Ariele Cialtrone che delira solo per te. Ci sono momenti nella vita professionale di un uomo nei quali bisogna ripercorrere i passi fatti e o i passi falsi fatti e chiedere umilmente scusa. Momenti nei quali a 6 ore si chiude la carriera professionale di un artista sono momenti per i quali conviene chiedere scusa ad altre persone che invece una carriera ce l'hanno ancora e che sono state cacciate a calci nel culo. Olè! Per colpa della mia arroganza. Ma no, dai, non volerti così male. Buongiorno Elena Diciocio, bentornata. Ciao caro, come stai? Bene, bene, sono veramente in forma. Guarda, mi sento come Eva Longoria nella pubblicità del Magnum. Vorrei registrare questo momento, me lo metto sulla segreteria telefonica. Esattamente, ma in questo momento non ricordo veramente nulla. Guarda, tu semplice, avevi ragione tu, avevi ho sbagliato ragione, io. Avevi ragione tu, no. Immaginati, no. Però abbiamo condotto per un bel po' insieme, sì. Appiccicati tra l'altro, appiccicati. Allo stesso microfono. Con lo stesso microfono. Stavamo così. Esatto, appiccicati. Infatti Elena ricordava un po' il mio profumo. Adesso vorrei proporre quelli che erano i fuori onda per un secondo, se vogliamo. Vediamo se me li ricordo. Un po' di cazzate, un po' di argomenti del giorno, un po' parliamo delle luminarie natalizie. Sì, fantastico, bella idea. Un po' ci organizziamo per le serate. Va bene, allora sentite questo disco. Sì, però Ariel, non è che puoi fumare un MS ogni nono secondo, perché mi intossichi. Non ho mai fumato negli studi di Rock. No, mi dai fastidio, vai fuori, fumi, poi io respiro il tuo fiato e puzzi. Sì. Tra l'altro si poteva ancora fumare negli studi piccolini. Si poteva fumare fuori. Si parlava dei piccoli ma accoglienti studi. Erano quelli veri. Certo. Sì, in diretta dai piccoli accoglienti studi di via Locatelli. Sì, facevamo i matti, sì, bello, un bel periodo, lo ricordo molto bene. Io so che in quel periodo potevate contare sull'ascolto eccellente di una persona che vi sta guardando estasiato in questo momento perché ricorda le emozioni vissute in Maurizio Paolini. Vero, verissimo, verissimo, sì. No, ma in realtà non è che avessi tante occasioni di ascoltarvi per questioni professionali, però quando mi è capitato era una goduria. Che ci vuoi fare? Vorrei ricordare quel giorno in cui abbiamo chiesto di scriverci qualcosa in dialetto, sì. E abbiamo letto in onda i peggio insulti, sì, della terra, tra cui credo qualcosa in dialetto sardo. Senza rendersene siamo stati conto. Richiamati. Bene, ragazzi, mi raccomando. Questo non può, sì, non può succedere oggi, no. Anche volendo insulti non ne arrivano. No. No, eravamo stati chiamati in direzione, ti ricordi? Perché c'era qualcuno della radio che aveva tradotto. Che sapeva il sardo, probabilmente. Però qualcuno deve aver fatto la spia e io non voglio ricordare chi dell'entourage di Rock FM può sapere il sardo. Marco Garavellu? No. Paulisu neanche? No. Cioè, la Tunellu? No. Stai svelando un segreto che non è mai stato detto ai microfoni di Rock FM. Quindi è vero. Pentirai amaramente di questo. Maximiliano, è vero? No, ha svelato un cognome, ma fortunatamente forse è passato così. Ma io o Elena? No, tu hai parlato, hai citato un cognome dello staff. Che tu, nessuno... io o Elena? Va bene, sorvegliamo. Mi dici il nome, per favore, sono un po' incoglionito, aiutami. Claudia non ha mai svelato il suo cognome al microfono. Derio, l'avrò detto 20, cioè, davvero? Te lo dico onestamente perché tu non mi senti la mattina, ma io l'avrò detto. È capitato anche a me, sai? Volete che vi dica l'imbarazzo della prima volta in cui Derio ha detto mio nome e cognome intero con secondo e terzo nome? È stato un momento Vogliamo violento. Ricordarlo in questi momenti. Non c'è problema. Abbiamo con noi in studio Elena Maria Ida di Cioccio. E allora? Del giorno dopo è stato un inferno, però accidenti. Che bell'inferno. Adesso mi è scesa un po' la tristezza. No, ragazzi, Lovro, che torniamo come stanotte. Ieri sera eravamo carichi da morire. Ma ha detto che ho stonato come un cagnaccio. Ma no, è stato un cattivo. Eravamo tutti. Comunque, per dovere di cronaca, l'episodio che citavate prima, il richiamo in direzione, è giusto dire che si parla di un altro editore, non quello attuale che sta decidendo, certo, sta decidendo, esatto, le sorti, certo, in maniera certo. Come dire, ognuno le sue colpe? No, sì. Più che altro abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti con gli editori. Sì, ottimi soprattutto. Splendidi. Un rapporto aperto, direi. Gli piacevamo tantissimo. Sì, piacevano le nostre... Vorrei anche ricordare una discesa al Motor Show di Bologna, Elena, cari amici. Tutto quello che vuoi ricordare, ricordalo. Magari se prima ce lo scrivevi, però io selezionavo... Però no, anche quello è un bel... Era un ricordo bello. Bellissimo. Bello, bello. Con Roccia anche in stanza, ricordo. ragazzi, e soprattutto i lanci dei portapass di Rock FM quando ancora c'erano. Un saluto e ringraziamento al mitico Lupo che ci ha accompagnato in quel periodo. Scusate, mi è scappato del rock. Guarda, sono è proprio quella canzone che non mi piace, Derio. Sai, sei proprio una di quelle che mi sta un po' sullo stomaco. Ti conosco, mascherina. Con il 3, 2, 1, andiamo. Professionista a usare Mr. Trombetta. Ma c'era già Mr. Trombetta. C'era già Mr. Trombetta. Anche a tempo, tra l'altro. Sentilo qua. Per una volta mi posso impossessare di Mr. Trombetta. Infatti io pensavo che fosse dura potersi impossessare dei tuoi strumenti. Vorrei fare un esperimento subito. Lo fai utilizzare un attimo a Faulisi? Perché secondo me tu c'hai il tocco di quell'allenamento femmine là. Vediamo. Sentiamo. Fuori Elena, ti prego, riprovaci. Devi proprio farlo, senti. Già, è lei. Qui c'è classe, qui c'è sto. Io sembravo ubriaco. Mi vede e mi riconosce. Esatto. Mi sei mancata. Sono ciao, commosso, ciao, ragazzi. Ciao, sono davvero commosso per quello che ho appena visto e sentito. Giuro, grazie davvero di esistere. Prego. Figurati. Più che altro, We Are a Problem Child era scelta apposta o perché vi piaceva la canzone? Ma un po' perché ci piaceva la canzone, un po' perché eravamo ragazzi problematici, esatto, però lo siamo sempre stati. Però ci siamo divertiti. Penso di non aver mai discusso con nessuno nella mia vita così tanto come con te. Nemmeno l'italiano. E mette il ditino nella piaga. Ma perché io ti voglio bene? Anch'io, Elena, guarda. Giuramelo. Dillo adesso. Te lo giuro su Mr. Trombetta. Io voglio bene a Elena Diciotto. Ti ricordo che basta, ragazzi, però adesso siamo pari. Facciamo anche il mignolino. Possiamo oscurare lo studio, ragazzi, se volete. Ci sono anche delle candele. Senti, ma me la fate risentire la sigla del 2003? Credo di averla trovata. Vai, The Rio! Sigla? The All-American Half Pound, Big Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. To Rock FM. こちらは KDD です。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめの上、おかけ直しください。 Hello, kitties, kitties, kitties. If you're not being down again, I'll call your operator for assistance. Moderate rock. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Questi erano, ci piacevano le sigle lunghe in quel periodo. Cioè, questi erano i primi lavori di produzione dell'Ariele. Perdonami, le trombe non le fai sentire? Questo arriva dal Rocky Horror Picture Show, roba seria. Quando Rocky si arrampica super vicino alla piscina. E poi cade. Che momenti. L'Ariele è sempre un genio, ricordiamocelo. Grazie Elena. Bravo trombetta. Sempre. La cultura paga sempre anche quella cinematografica da queste parti. Ma posso svelare una cosa incredibile che spezzerà il cuore a tantissima gente là fuori? Sì. Quel mister trombetta lì che sì. Ha in mano è morto. Che è mister trombetta che ho utilizzato negli ultimi 2-3 anni. Non è il vero, cioè in realtà c'è un altro mister trombetta che è morto, nel senso è che è un surrogato di mister trombetta. A un capodanno ho perso la parte dietro. Certo, okay. Detto così non è molto bello. Perché non vedono cosa ho fatto. Ho staccato, certo. Descrivilo Elena, per favore. Allora, ha staccato la parte che si gonfia d'aria, di gomma, sì. Quella di gomma, la pompetta. Non mi far dire queste parole, ma perché mi devi far sempre dire queste cose? La pompetta fa ridere. La pompetta, esatto. E l'ha attaccata alla trombetta. Tra l'altro, adesso l'ho sfasciato anche questa qui. Quindi a posto. Quindi è tipo Mister Trombetta 2, questo qui. Vabbè, insomma, era uguale. Vabbè, fa niente. Il suono, guarda che è lo stesso. Era solo cioè, la tromba è quella. La parte in avanti è quella? No. La parte dietro no, è no, quella la originale? Parte, il pezzo morto ce l'ho a casa mia. Cioè, beh, l'importante è che tu ce l'abbia. Sì, io tengo tutti i miei animali i tuoi morti. I tuoi animali morti. In casa. Infatti anch'io sono rimasta per un po' come una pelliccia. Esatto. Appoggiata al tuo letto. Delle ciocche di capelli. Vorrei ricordarti che oggi alle 18 però dovresti, ecco insomma, magari se recuperi anche quel cartone. sì, no, purtroppo quello degli animali di plastica, direi di sì. Sì, devo sì. Portare, la via. Gallina, insomma. Vedo anche occhi vogliosi che si aggirano per lo studio puntando proprio a quello scatolone, quindi ma chissà se li trovi tutti. No, ragazzi, non scherziamo. Vabbè, io sono in mood vera tristezza, ve lo posso dire. No, è colpa nostra che siamo no, perché stanchi. Ieri sera ero contenta, però venendo qua quest'oggi in macchina ho fatto un ripensamento. Aspetta, agli scusami. No, però dai, scusami, per uno che non è che insomma, per chi voleva fare la radio, avere la possibilità di arrivare a Rock FM era un sogno, per cui insomma, il fatto di averne vissuto un pezzo per me rimane nel cuore. Detto questo, basta, fine, ciao a tutti. E per me è stato un piacere viverne un pezzetto con te. Dall'Urlo Box chiedono, ma Elena ha mangiato la mozzarella come ieri sera? Sì, nel senso che mi è rimasta attaccata i denti, per questo non riesco a parlare. Ok, bene, abbiamo svelato anche questo mistero. Ma perché c'erano le mozzarelle di là in redazione? Lo so, abbiamo dato tutti il nostro contributo, anzi grazie ancora a chi ha avuto questo pensiero gentilissimo. Per oggi ringrazio i dolcetti al cocco. Sono arrivati già da ieri, noi avevamo già. Ma è una nuova scatola. No, è arrivata oggi. Allora vi lascio con Alice Cooper. Hello, kitties. E questo ci This is Alice Cooper and I'm on Rock FM. Yo. Dai, non fate i timidi. No, sono indecisa perché stavamo pensando di fare una piccola intervista a DJ Ariele, perché dice che ha un sacco di cose che vorrebbe ancora dire, ma aspetta l'ultima mezz'ora. No, non ci siamo capiti. Ho detto, spero di arrivare talmente stanco. vai avanti. A quel punto da... Già non ho inibizioni nel dire le cattiverie. Quando sono ancora più stanco. Vuoi che ti taglio il filo del freno? Ma qualcosa ci fa pensare che le hai già in mente. No, ragazzi, c'è stato un misunderstanding. No, che okay, basta, allora basta. Misunderstanding. Okay. Quanto sono diplomatico, stanco. Ma guarda com'è bravo. Sei stanco, riesci anche a essere diplomatico in questo momento. Ma non sono momento. Più quella testa calda che conoscevi tu, cara Elena. Sono cresciuto. Perché gli anni sono passati. Sono maturato. Le pance si sono gonfiate. Guarda che abbiamo la stessa pancia, è gravissimo. Vedo che smanetti sulla rete. Si vede che sei cresciuto soprattutto dal taglio di capelli, che denota maturità. Grazie. Sì, è intinta, capello e maglietta, rosso su rosso. E scarpe. Parla quello là, scusami. Adesso. Sì, effettivamente Rio ha scelto un porpora. Ragazzi, sono ancora giovane. Poi ho già spiegato che il porpora è un colore adatto al momento. Che stiamo vivendo. Avete deciso che è porpora, quello non è. Viola? Forse viola? Si è guarda, mi ha dato viola. 50 no, euro. No, ho sentito. Ho detto, ma lo pensavo io. No, ma si è sentito che hai detto viola comunque. No, ho detto. Io ho sentito porpora, sono quasi sicura, Max, fidati, ha detto proprio porpora. Comunque porpora. Ragazzi, vabbè, insomma, dieta, adesso scendiamo giù da basso e giudicheranno gli ascoltatori. A proposito di basso, come va laggiù la situazione? Sotto controllo. Perché sono lontani però i ragazzi di là in Locatelli, noi in realtà in questo momento siamo in persona. E Ricci sotto ha puntato su via Pisani dovrebbero passare un po'. Ricci ha puntato. Ormai siamo diventati fratelli di Maglioncino. Loro ci hanno lasciato il Maglioncino rosa e noi gli abbiamo lasciato. Poi ci prestano i divani ogni volta che glielo chiediamo. Alle prime luci dell'alba quest'oggi Ricci ha scavato un fossato dove ci sono dei coccodrilli sotto qua in via Pisani. Anche le puntine. State attenti quando arrivate. Ci sono puntine da tutte le parti. No, perché ieri sera mi ero un po' abituato alla gente sotto, invece vedo che stasera adesso ci sono solo più che altro la gente degli striscioni che frequenta quel locale. Si stava un po' divertendo, diciamo. Sì, non sono mai divertiti così tanto. Ovvio, che ci vuoi fare il rock and roll, fa divertire. Ah no? Sì, c'erano quelli in giacca e cravatta con gli occhi di fuori, però insomma. Io so siamo che abituati a una notte diversa dalle altre. So che Elena mi odierà per questo, però al di là del cazzeggio che va benissimo, che fa parte della storia di questa radio. Però ovviamente ce ne stiamo andando. No, vogliamo dire anche qualcosa di serio, Elena. Sì, io non riesco perché in mano a tutti, devi prenderlo anche tu. Bravo, complimenti, ecco. Bravo. Grazie, Massimiliano. Signore. Bravo, grazie. E cosa vuoi che ti dica? Che sono disperata, sono triste, sai, io ho cominciato da qui, mai avrei pensato di fare niente. Il giorno che Garavelli mi ha detto dai, prova a venire un attimo in console con noi qui a Rock FM, da lì ho fatto un sacco di cose e per me è come se fosse la mia prima casa questa. Senti l'agitazione di quelle prime dirette nelle quali ti abbiamo fiondato da sola con un mixer da curare, da seguire, è un po' passata però. Guarda, devo ringraziare Claudia perché mi ha insegnato a utilizzare il mixer. Stai messa bene però. È vero. Elena, correva l'anno, perché lo sappiano? Era 2002-2003 credo. Uh-huh. Inizialmente... Prima dell'incidente di Claudia. Questa era bella. Molto. No, inizialmente delicata. Ho cominciato con col DJ Ariele che voleva tanto una compagna nel suo programma Frigidaire. Poi dopo le nostre personalità sono andate in conflitto, ma come vedete ci vogliamo ancora bene e ci telefoniamo e ci mandiamo dei gran messaggi di supporto. Invece sì. Non dire cazzate. Elena, dovremmo sentirci di più. Lo so, infatti anch'io pensavo la stessa cosa, ma la tua fidanzata mi guarda malissimo. No, ragazzi, comunque. Comunque detto questo, facciamo la scuola di calcetto, ragazzi. Ora stiamo amici. E poi certo. Ci sentiamo. Oh, facciamo le vacanze però, dai. Poi tua mamma mi ha invitato in Sardegna. Per cui insomma, prima con lui, poi ho preso il tuo posto all'ora buca e poi le serate, le feste. Era Fabione! Da queste parti. Ragazzi, cosa è successo? Si parla di arte qui. Ma guarda che delle meraviglie. Sono arrivati dei nostri ascoltatori di Lucca. Questo sono io. A Topo Figo. Una caricatura. Ma no, dai, meravigliosa. Mi hanno appena dato la caricatura. C'è anche dietro Freak. È il primo caso, almeno per quanto mi riguarda, in cui la caricatura è meglio dell'originale. Questo è incredibile. Che si porta via i dischi. sì, l'hanno capito, l'hanno capito tutti. Attenzione, ma sono arrivati dalla Toscana con una pagnotta enorme e una finocchiona da 4,5 kg. Grazie ragazzi, siamo ragazzi. Va bene, allora grazie a tutti. Siamo in automatico, chiudiamo le 18. Grazie a tutti. Vabbè, niente, insomma, no, dai, non me la far tanto lunga, però insomma, che cosa vuoi che ti dica? È un colpo al cuore. Pensare domani mattina di svegliarsi, accendere la radio e non ci siete più è dura. Ti devo dire, caro fratello Max De Rio, qui ho cominciato. Ragazzi, l'ha detto, sento le prime lacrime di una lunga serie. Poi prima è arrivato un messaggio vostro, il vostro numero di SMS di quella signora. Vuoi leggerlo, De Rio? Sai che credo che abbiamo dovuto resettare. Beh, insomma, c'era scritto. Era 52enne. Sì, sono una mamma 52enne, mamma di credo 2/3 figli rocchettari. Sì. E con la chiusura di Rock FM si chiude anche un capitolo della mia vita, un capitolo della vita fatto di tutto rock and roll e corna al cielo. Sono tutti così e sono centinaia all'ora. Centinaia. Davvero incredibile. È straziante e riuscire a sopravvivere a una cosa del genere, ma ce la stiamo facendo. Fortunatamente c'è la finocchiona, ragazzi. Fortunatamente c'è la finocchiona. Grazie dell'ospitalità e che dirvi. A presto. Buona giornata. Dai. Ma allora ti odio, ma lo sai che piango a qualsiasi cosa. Voglio dire, non è che devo piangere da sola, almeno piangiamo insieme, ci abbracciamo. Siamo famosi per abbracciarci e piangere ai concerti. La cantiamo. Questa è l'ultima giornata, l'ultima 24 ore di Rock FM. Grazie per tutto quello che mi avete dato. C'era anche Elena Di Cioccio con noi, come è giusto che sia. Grazie. Voglio bene, Elena. Anch'io, a tutti quanti. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. On the stairs, cause I'd rather be alone. I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Thank you. Oh, I'm never breaking, cause I can't take it. Mi sono permesso di scegliere questa Passions di Guns N' Roses per salutare Elena Di Cioccio che era con noi. Come è giusto che sia, come più volte annunciato in questa ultima 24 ore, stiamo cercando di ritrovare i tanti amici, sono stati davvero tanti in questi 18 anni che si sono alternati al microfono. Senti, ce n'è un paio ancora che potrebbero partecipare telefonicamente? Sì, c'è qualcuno che purtroppo per problemi lavorativi, familiari, chilometrici, non potrà essere con noi. Non potrà essere con noi neanche al telefono, mi fanno cenno dalla regia. Sì, ma sì, all'una però. All'una. Okay, lo sentiremo tra qualche minuto. Sì, nel frattempo possiamo dire che è arrivato Mox. È arrivato Mox con la camicia bianca d'ordinanza. Sì, sì, con la camicia stiratissima. Sembra vestito. Bello preparato. Sembra vestito da Cresi. Profuma da far schifo. Sembra vestito da Cresi, ma eccolo qua. Incredibile. Neanche quando suona con la band si veste così male. Un applauso sbruffone. Quello occhio è un applauso circolare. Pulito e preparato come sempre. Okay. Grazie Ariele, grazie, buongiorno. Prego. No, ma grazie Ariele, noi siamo stronzi, Maurizio. Grazie Mox. Buon gustare. Grazie di esistere. No, perché insomma. No, adesso porto, motiva il fatto che noi siamo qui da più di 20 ore e tu arrivi alle 12:38 dell'ultimo giorno di Rock FM. C'è un buon motivo almeno. Assolutamente. E il cerone perché te non sei messo? Non ho messo il cerone. No? È la mia ha faccia fatto la naturale, naturale. Porca. Allora, come di qualcosa, Mox? Niente, sono contento. Lui è contento. Cioè, ragazzi, qui tutti sembrava disperati, un calciatore lui è contento. In questo momento. Sembrava un calciatore. No, detto, saluto tutti quelli che mi conoscono. Ringrazio il mister che mi ha fatto giocare. In realtà il mio grazie e il mio essere contento, adesso detto che sembra un po' fuori luogo, è rivolto alle persone che sono qui con noi, che si sono susseguite, che sono sotto la radio e che ci emozionano con la loro presenza, con i loro regali, con il loro affetto. Tutte cose già dette e ridette, io sono rimasto costantemente, siamo in diretta da 20 ore, costantemente in ascolto della radio. Si scherza, no, però è importante la cosa che diceva Mox, diamo un aggiornamento perché in effetti qua fuori c'è già lo zoccolo duro, è già presente dalle prime ore di quest'oggi, anzi molti sono anche rimasti che hanno dormito qui intorno alla radio, esatto. Ma si sta, voglio dire, sta diventando molto grosso. Noi non vi diciamo di venire in via Locatelli numero 1 dove ci sono i nostri 12, mancherebbe. Non possiamo farlo, però voglio dire, qui c'è festa, ragazzi. È una festa assoluta. E poi soprattutto, vabbè, insomma, è una questione di spazi. Io sono stato abbastanza ingombrante in questi anni, per cui ho deciso di lasciare un po' di spazio a voi. Ma perché dici? Giustamente. Cioè, volete dire che Mox si è reso conto che ha rotto i coglioni? No, Edo, esatto, cosa dici? Con la sua solita e classica irruenza, Edo ha rovinato un momento poetico. Però aveva detto una cosa vera. Sparare, sono felice di lasciare spazio anche a voi che giustamente ne avete diritto. Sparare su Mox ha sempre il suo fascino. Ma è anche tanto facile. Sai come si dice? È come sparare su uno che caga. Scusate, ma sto vedendo una scena che non avrei mai voluto vedere. Max De Rieu stava cercando di suonare il kazoo al contrario. No, guarda, in effetti. E allora, visto che so ma che tra gli amici ispirava, attenzione. Tra gli amici toscani che sono venuti su questa mattina ho intravisto un paio di sbarbi che avevano un set di kazoo. Quindi quasi quasi vado giù a farmi una suonatina di kazoo. Guarda, posso una venire gem con te così magari imparo? Devi. Allora, io e Max andiamo a gemmare. Facciamo partire un easy ride. No, allora. Vorrei precisare che non andiamo giù per la finocchiona comunque. No, per il kazoo. No, per il kazoo, assolutamente. Dischi ne abbiamo? Io sì. Io forse non ho detto che la persona della quale parlavamo, che si collegherà con noi alle 13, è Ilario Lorusso, un fratello che ha fatto parte della famiglia che sentiremo tra qualche minuto. Adesso che facciamo? Molliamo il pilota automatico o qualcuno se la sente? Io andiamo avanti, sento, se andiamo volete. Avanti. Ciao ragazzi, ciao. Se la sente Mox, stiamo in una botte di ferro. Stiamo arrivando cavi in occhiona. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey, naked by the phone. Would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out. Would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. United we stand, divided we fall, le parole di Roger Waters, grandissimo, chiarissimo. Vengono un po' anche sì, casualmente cascano sì. A fagiolo. Esattamente. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Negli studi in questo momento al mixer e ai microfoni Mox, Faulisi e Edo. Gli altri sono andati ad abbracciare i nostri amici che... Circolarmente. Sì, naturalmente, ormai è così. Sono scesi in strada dove il gruppo di amici va crescendo di momento in momento, dalla Toscana, dal Veneto, dalla Liguria, dall'Emilia Romagna e naturalmente Milano. E approfitto per menzionare anche chi c'è all'interno, magari l'avete fatto qualche ora fa, però insomma ringraziamo anche tutte le persone che sono qui, no, a partire dalla Bea, dalla Luciana, Serena, insomma tutte le persone che girano all'interno. Grande collaborazione, fondamentale Antlon. Esatto. Allora ragazzi, qua bisogna... Maurizio, dobbiamo stare composti io e te, perché all'interno del programma di Mox bisogna essere composti. No, il problema è che Maurizio è sempre composto. No, alta. Il programma di Mox è questa sera dalle 21 alle 23. Ah ok, allora esatto, possiamo svaccare. Quindi noi gli lasciamo le chiavi, poi, se la veda lui. Esatto, va bene. Vada, magari ci fosse la possibilità di proseguire a nostro piacimento, quando e come vogliamo, disponendo di questi mezzi di cui abbiamo fruito per diversi anni. Ok, ci fosse ancora ancora necessario ricordarlo, alle 18. Esatto. Si sentirà un po' di un attimo di silenzio. Esatto. Sì, sì, aspetta silenzio, che arriva il direttore. Oh, direttore, benvenuto anche a Marco. Tanti auguri, tanti auguri Marco Gravelli. No, perché è il posto più fresco della radio. Ah, solo per questo? Welcome back, welcome back. Ed ecco, buongiorno, siamo in qua. Buongiorno. Ah, Arden Devi, te lo ricordi? Grande Mario. Bene, io sono onorato di andare in onda con queste due pietre miliari della radiofonia italiana. E con uno stronzo dall'altra parte del vetro. E un'altra neo pietra miliare della radiofonia come italiana. Come se la salva la grande, mamma mia. Grande Max. Allora, com'è il palinsesto estivo? Ma guarda, innanzitutto Mox è venuto con un disco qui sotto braccio, esatto, e probabilmente dura 48 minuti, come le sue solite. No, in realtà no, tutt'altro genere, tutt'altro incedere, e ha anche un suo significato nelle parole di questa canzone. È un testo vagamente arrabbiato, o quantomeno rivolto a chi fa nella vita delle malefatte. Ecco, quindi è inutile dire a chi potremmo ipoteticamente dedicarlo, non è più neanche importante, però insomma mi sembra un bel biglietto da visita. È anche un po' uno spezzare quello che è l'incedere, insomma, delle canzoni che ascoltiamo sempre, quindi è bello ancora poter dire qualcosa con... Annunciamolo allora. Va bene, il pezzo recita nel ritornello a Firestorm to Purify, ed è un brano che io avrei scelto nella rosa, diciamo, dei cinque brani. 18.000 che hai. Sì, nel brano conclusivo che questa sera, ricordiamo che questa sera, prima della conclusione, intorno alle 17, cominceremo. Metterà un brano, esatto, l'ultimo brano. Io avrei messo anche questo, poi in realtà ne ho scelta un'altra, quindi lo sappiamo, l'ascolteremo dopo. Quindi di che anno è questo? È del 1994. Perfetto, si intitola? E arrivano da Syracuse, stato del New York. Posso dire soltanto una cosa, dura 3 minuti e 51. Allora lo facciamo sempre. Una cosa stranissima per finisco l'introduzione. Allora, stato del New York, si chiamano la crisi della terra, Earth Crisis, e questa è una tempesta di fuoco per purificare, Firestorm. Fly! una tempesta di fuoco per purificare. Senti, speriamo che purifichi dall'ignoranza che ci circonda. Esatto, prima di tutto purifica il tuo sound e girati il microfono verso di te. Grazie, grazie. Ripeto, una tempesta di fuoco per purificare. Abbiamo capito. Speriamo che purifichi dall'ignoranza che ci circonda. Ah, messaggio, bene, messaggio chiaro e sappiamo a chi è diretto in qualche maniera. Questa grinta che è abbastanza anomala sentirla da grinta o violenza, no? Più che grinta violenza, no? Ma no, in realtà è uno dei miei gruppi preferiti questo qua, perché è un gruppo che si rivolge un po' a tutti cercando di declamare quelli che sono i principi, i valori della pace, nel senso che loro sono vegani, sono straight edge, quindi ce l'hanno un po' con tutti quelli che avvelenano la terra uccidendo gli innocenti, in questo caso gli animali, piuttosto loro addirittura arrivano ad essere contro l'aborto, però lì è un capitolo nel quale non voglio neanche entrare, anche perché non mi trovo totalmente. Garelli, qual è il programma adesso del esatto, cosa succede? Tra 5 minuti allo scoccare della una abbiamo Riccardo Vianello che diversi ce lo ricordiamo nel weekend teneva un programma sul cinema. Tra l'altro, se non sbaglio, Rock FM The Movie. Scusate, vuol dire che parla degli ultimi 4727 film? Tutti quelli che si è perso, quelli che non ci hanno, che non è andato in onda, no. Farà lui un excursus, non so che cosa ha preparato. Tra l'altro, ne parleremo tra breve. Ma vediamo Marco, credo di non sbagliare, andava in onda più o meno a quest'ora, andava tipo in onda a mezzogiorno. E poi c'eri tu, Emanuele. Ah, che andavamo in replica nel weekend. Esatto, che era fottutamente registrato. Esatto, diciamo, vabbè, sì, non eri qua dal vivo. Figurati se stavo qua con i weekend. E Riccardo, poi ci sarebbero degli aneddoti, certo, la sua intervista con Ozzy Osbourne, le sue traduzioni, eccetera. Il programma col basket, lui grande esperto e patito di basket. Alleni ancora le squadre femminili di basket, ora che sei sposato, eccetera. No, diciamolo, Quest'anno vi dirò che ho fatto anche il telecronista ufficiale dell'Eurolega, sono andato a Madrid a fare le finali di Eurolega in diretta in tutta Europa. Con Dan Peterson. Con Dan Peterson. Grazie. Allora, tra poco dopo ne parleremo. Tra l'altro, grazie alla sua attività di traduttore di libri rock fondamentali, è stato anche ospite a Rock FM nel mio programma un paio di volte per la precisione. Kilmi e Lenny. Bene. Allora i prossimi tre minuti li passiamo magari con Trevi Street, uno che normalmente fa country, ma quando fa rock and roll. Sentite, questa è Trouble. Happens on the dance hall floor. Mercy, look what just walked through that door. Well, hello, T-R-O-U-P-L-E. Tell me what in the world you're doing, L-O-N-E. Yeah, say hey, good L-O-K-I-N-G. Well, I smell T-R-O-U-P-L-E. Baby, when my papa hit the skids, mama had a time trying to raise 9 kids. She told me not to stare cause it was impolite. She did the best she could to try to raise me right. But mama never told me about nothing like a Y-O-U. But your mama must have been another good looking honey too. Hey, hey, good end of the low. Walking, honking, talking, baby. The men are gonna love you and the women gonna hate you. Reminding them of everything they're never gonna be. Maybe the beginning of a World War III. Cause the world ain't ready for nothing like a Y-O-U. I bet your mama must have been another good looking mama too. Hey, say hey, good L-O-K-I-N-G. Well, I smell T-R-O-U-P-L-E. Allora, siete su Rock FM, queste sono le ultime ore con gli ultimi ospiti e abbiamo un graditissimo ritorno, il grande Riccardo Vianello. Allora, benvenuto e bentornato a Rock FM, Riccardo. Grazie Edo, grazie a tutti. Qui una volta partiva la sigletta di Rock FM, esatto, The Movie. Esatto. Ricordiamo che The Movie è un programma che è andato avanti per 5 anni in diverse fasce orarie. Prima era partito con un DJ che adesso non lavora con Rock FM, ma che dovremmo avere forse più tardi in collegamento, che era, certo, Ilario. Certo. Poi si è spostato in una fascia preserale, poi si è spostato in una fascia pomeridiana. Comunque, scusate, verso quest'ora del sabato prepomeridiana. Esatto. Comunque è un programma di 5 anni in cui abbiamo cercato di parlare di cinema, raccontando un po' le nuove uscite, parlando molto di cult movies, perché cercavamo comunque di parlare anche di film che potessero essere di interesse generale, anche se non erano nuovissimi. E diciamo la particolarità che abbiamo sempre dato al programma era quella di infilare pezzi di colonne sonore, sempre ovviamente rigorosamente rock, che io ricordi nella storia del programma forse la cosa meno rock che abbiamo passata era un Pure Shores delle All Saints. Attenzione. Dalla colonna sonora di The Beatles.